Allora, Vanessa Roghi, Il passero coraggioso è il titolo, CP Mario Lodi e la scuola democratica. Vanessa, si può raccontare Mario Lodi partendo proprio dal suo libro più conosciuto per bambini, per ragazzi, che è CP? Sì, io ho proprio preso spunto, diciamo, da CP, che sicuramente è il libro di Lodi più famoso perché rappresenta in qualche modo l'essenza del lavoro di Mario Lodi e del gruppo di maestri e maestre che con lui ha provato a rendere democratica la scuola italiana nell'immediato dopoguerra. Perché CP è il primo caso, diciamo, di scrittura collettiva che viene fatto con i bambini dentro la classe, a partire, e già questo è, come dire, un gesto rivoluzionario per la scuola di quegli anni, e non solo appunto la scrittura dei bambini, ma proprio a partire da quello che i bambini guardano fuori dalla finestra. Quindi non è, diciamo, la rielaborazione di una lezione fatta o appunto di un'esperienza altrui imparata a scuola, ma è proprio un volgere lo sguardo fuori dalla classe, appunto verso l'esterno, verso il giardino, e con quello appunto iniziare a ragionare sulla possibilità di far entrare dentro la scuola il mondo esterno. Mario Lodi inizia ad insegnare avendo alle spalle un'esperienza nella scuola fascista, perché lui è del 1922, e quando inizia ad insegnare propone un po' gli stessi metodi, ma poi si rende conto che non va bene. Che cosa succede in questa scuola di Vo? Ma in realtà appunto lui fin dall'inizio è molto scontento dei metodi della scuola che lui ha frequentato, infatti lui non vuole fare il maestro, proprio non ci pensa, non sopporta l'idea, gli sembra appunto di essere inutile come maestro, appunto così come lui l'aveva conosciuto. Effettivamente a Vo lui inizia quindi a sperimentare da solo, però la sperimentazione da solo è molto frustrante, come scrive Lodi nel suo primo diario scolastico, che poi sarà C'è speranza se questo accade al Vo. Il vero momento di svolta è quando nel 55 conosce appunto questo gruppo di maestri e maestre del movimento di cooperazione educativa e si confronta con loro su questi esperimenti fatti in classe, e quindi appunto inizia a mettere, come dire, a diventare concreta la possibilità di una didattica alternativa che nel momento in cui viene confrontata con gli altri viene anche formalizzata e quindi resa veramente una possibilità per tutti e non soltanto appunto un fatto, come dire, singolare e anche abbastanza occasionale, insomma. Quanto influisce su Lodi e anche gli altri maestri la pedagogia di Freinet, che in quegli anni naturalmente, quella francese naturalmente, era all'avanguardia? Loro entrano in contatto con la pedagogia di Freinet proprio nei primi anni 50, grazie al fatto che Codignola, che nel 50 fonda la rivista Scuola e Città, traduce appunto un pezzo di uno scritto di Freinet. Poi Freinet viene invitato in Italia, alcuni vanno a sentirlo, fra questi ci sono Giuseppe Tamagnini, per esempio, che è il fondatore del movimento di cooperazione educativa. Freinet ha una grande influenza. È molto interessante andare a vedere perché Freinet rivoluziona il modo di fare scuola dopo la Prima Guerra Mondiale, perché lui in Prima Guerra Mondiale aveva avuto una lesione ai polmoni, quindi non riusciva proprio fisicamente, una volta ritornato sui banchi di scuola, a fare scuola in modo tradizionale, facendo lezioni tutto il tempo. Quindi per questo motivo, appunto, cioè, come dire, rovescia la classe, no? Quella che oggi si chiama la flip class. Ma appunto lui la rovescia dopo la Prima Guerra Mondiale, facendo partecipare i bambini, facendo fare a loro lezione e ricerca, e quindi appunto impostando questo metodo di lavoro completamente nuovo. La sua influenza sarà grandissima. Allora, Vanessa Roghi, ritorniamo un attimo al libro, perché lì c'è tanto proprio di pedagogia, di insegnamento alla socializzazione, alla democrazia, e quanto i bambini sono compartecipi nella realizzazione di questo testo. Sì, moltissimo, cioè nel senso che il CP è un libro scritto dai bambini e Mario Lodi, insomma. Il progetto è proprio quello di fare un lavoro di scrittura collettiva che viene sempre riletto, autocorretto e poi chiuso dai bambini stessi. Loro iniziano appunto mettendo insieme le loro osservazioni sul mondo fuori dalla finestra, e poi c'è anche però appunto l'invenzione. Questo è un aspetto molto importante della pedagogia di Lodi, che non c'è soltanto appunto la ricerca e la descrizione, ma l'elemento della creatività dei bambini, che è però una creatività sulla quale si lavora a partire dalla realtà, stimolandola, facendola crescere. Non è appunto una creatività astratta per cui si prende un bambino, lo si tiene seduto al banco, non lo si fa mai uscire dalla classe o sperimentare niente, e poi gli si dice inventa. Ecco, questo ovviamente Lodi non l'avrebbe mai fatto.